Non è mai troppo tardi per provare ancora, per ricrederci. Basta un eco di luce, basta un filo di voce per vedere al buio, per parlare. Benvenuta sia la ragione. Bene la follia e il dolore. Voglio tutto, tutto, tutto il mondo, tutto, tutto, tutto il mondo. Siero felice per volare via dalla polvere. Basta un gesto di pace, basta un grido feroce. Lottare. E che il vento sia la mia casa, e il pensiero sia come voglia. Voglio tutto, tutto, tutto il mondo. Pane, fame, amore, sì, guerra e pace. Voglio tutto, tutto, tutto il mondo, tutto, tutto, tutto il mondo. Tutto, tutto, tutto.